Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi, sono le 13.34 minuti e 11 secondi, parte la settimana d'Italia in controluce, sono due edizioni quotidiane che vi raccontano ogni giorno l'Italia. Anni 70, Roma è divisa a macchia di leopardo, certi quartieri come San Lorenzo sono rossi, altri come il Parioli o alcune borgate sono nere. Anche Milano è divisa, a San Babila nessun ragazzo con l'eschimo può passare, ma intorno all'Università Statale chi va in giro col vespino bianco, con lo stemma italiano, con le scarpe a punta e gli occhiali alla moda viene aggredito. A Roma e a Milano gruppi politici avversi si contrappongono nelle piazze, nelle strade, durante i cortei, di notte, mentre neri e rossi attacchinano manifesti, sempre di notte, davanti alle abitazioni dei leader più in vista. Una sorta di guerra palmo a palmo. Nei giorni scorsi avevamo parlato dei ragazzi di sinistra uccisi in Italia dai loro avversari. Oggi invece parliamo dei tanti ragazzi di destra assassinati che non hanno ancora una giustizia. Uno tra tutti, la vicenda dei fratelli Mattei, il racconto di Cristina Carpinelli. Vorrei che venissero sul palco, vorrei che la loro presenza qui insieme fosse il simbolo di come l'Italia può essere un grande paese unito, unito nel rispetto delle differenze e unito dal rifiuto dell'odio e della violenza. Quando sono arrivata e mi hanno detto, insomma, che c'era il signor Mattei, io distinto mi sono alzata perché era vicino a me e l'ho abbracciato, distinto subito, senza, mi è venuto proprio spontaneo. E poi mi ha fatto piacere perché, insomma, i morti sono tutti morti, di nessuno, non c'è nessun colore, né rosso né nero. Dice così in un'intervista di qualche anno fa Carla Verbano, la madre di Valerio, ucciso dai fascisti. La madre di Valerio, per volontà dell'allora sindaco Veltroni, si trova sul palco a fianco di Giampaolo Mattei, i cui fratelli furono uccisi da un gruppo di comunisti di potere operaio. È la storia dei fratelli Mattei che ci porta nel quartiere popolare di Primavalle, periferia romana. Una periferia che a Roma si chiama Borgata e che ancora oggi non usa questo nome a caso. La famiglia Mattei ha sei figli. Il padre, Netturbino, è segretario della sezione Missina di quartiere. La notte del 16 aprile qualcuno cosparge di liquido infiammabile il pianerottolo, liquido che poi scivola sotto la porta dell'appartamento. Gli assassini danno poi fuoco e fuggono via. La famiglia Mattei, sorpresa dalle fiamme, cerca di salvarsi. Scappano in quattro, ma nell'incendio, in un modo tremendo, muoiono Virgilio e Stefano. Li trovano appoggiati al davanzale, uno con il braccio sulle spalle dell'altro. Virgilio ha 22 anni, Stefano ne ha 10. La madre Anna non perdonerà mai gli assassini dei loro figli. Da quella notte per me non c'è più nessuno. Io non devo perdonare nessuno. Perché devo perdonare? Perché li devo pure ringraziare per caso, no? Davanti al portone del palazzo viene trovato un cartello di rivendicazione, un foglio a quadretti con la scritta «Brigata Tanas, guerra di classe, morte ai fascisti, colpiti dalla giustizia proletaria». La Brigata Tanas è un gruppo interno a potere operaio ed è composta da tre persone, Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Si tratta di una squadra di azione militare, illegale e violenta. Pochi giorni dopo la strage, il 18 aprile, Achille Lollo, a fronte degli indizi e riscontri raccolti sulla sua colpevolezza, viene arrestato, mentre gli altri due componenti della brigata, Clavo e Grillo, si danno alla latitanza. Negli ambienti di potere operaio, i cui dirigenti condannano l'episodio, si dicono all'oscuro di quanto avvenuto, ma non prendono mai una posizione di distanza rispetto ai fatti di Primavalle, si sostiene che ad aver ucciso i fratelli Mattei siano stati i fascisti impegnati in lotte di faida interne, tesi sostenuta anche dalla difesa durante il processo. Processo che comunque si conclude con la condanna definitiva dei tre imputati, ma ormai sono tutti latitanti all'estero. Ex primo ministro da Slovenia, Oggi Lollo fa l'opinionista in Brasile. Questo è uno dei suoi ultimi editoriali che vi facciamo sentire, nel quale parla di prescrizioni e scandali. Concluita questa riunione, i giornali europei svoltarono l'attacco. È una storia incredibile, quella del rogo di Primavalle, come racconta Gian Maria Monti, giornalista che con Giampaolo Mattei, fratello delle due vittime, ha scritto il libro La notte brucia ancora. Io sono un giornalista che conosce un po' la storia di quegli anni. Ho una formazione politica di un certo tipo, anche culturale di un certo tipo, che è all'opposto di quella dei Mattei, della storia del movimento sociale italiano e della destra italiana. La cosa che mi ha colpito violentemente è stata la campagna che fu orchestrata intorno a quello che è il primissimo atto terroristico drammatico della storia di questo paese, della sinistra, perché c'era stata la strage di Piazza Fontana prima, poi c'è dovuto di Primavalle. Per la prima volta l'odio ideologico arriva a cancellare le persone, ma semplicemente diventano dei simboli. Questo accadde nella casa di Mattei. Un orrore così grande che le stesse organizzazioni extraparlamentari di allora, Potere Operaio in testa, a cui appartenevano i responsabili del rogo, non può giustificarlo in nessun modo, non può avallarlo in nessun modo, quindi lo respinge lontano da sé. Dice che è un rogo interno ai fascisti, se lo sono fatto da soli. Fu pubblicato un libro fatto proprio dalle menti militanti di Potere Operaio, che si intitolava Primavalle, incendio a porte chiuse, la cui tesi era che fosse una roba interna, una faida interna alla destra, usando la parola faida come per le mafie. Questa tesi ebbe appoggi anche importanti di parlamentari, di intellettuali molto, molto importanti, e questo odio, questo furore ideologico ha provocato dei danni che si sono protratti per 20 anni. L'altra questione che è stata rilevata da coloro che si sono avvicinati a questa storia è la pagina giudiziaria. Allora, lì è avvenuto un vero impiccio giudiziario spaventoso. I responsabili sono Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Lollo è l'unico che si è fatto un anno di carcere, perché fu arrestato subito, però in primo grado fu assolto e quindi uscì dal carcere. Uscito dal carcere raggiunse i suoi amici in Sud America, cioè Clavo e Grillo. Quando poi arriva la condanna in secondo grado per omicidio colposo, incendio doloso e porto abusivo di esplosivi, loro vengono condannati a 16 anni, ma quei 16 anni sono la somma di una serie di reati. Il reato più grave è esattamente l'omicidio colposo, che sono 8 anni. La legge prevede che quando passa il doppio del tempo del reato, la pena, se non è stata scontata, va in prescrizione. Esattamente quello che è avvenuto il 12 ottobre del 2003. Nel 2005, Achille Lollo, che nel frattempo stava in Sud America, viene raggiunto da Rocco Cotroneo del Corriere della Sera e fa un'intervista devastante in cui dice non solo che erano stati loro, ma che c'erano altre 3 persone con loro, che sono oggi sotto inchiesta per il reato di strage. Il paradosso è che loro, che erano gli autori materiali di quell'attentato, hanno avuto la condanna per omicidio colposo. Quello era un delitto, quella fu una strage vera. Invece gli altri 3, che Lollo dice che erano con loro, cioè Elisabetta Lecco, Diana Perrone e Paolo Gaeta, oggi rischiano il processo per strage. Grazie a Cristina Carpinelli per questo racconto che sa soltanto leggermente di passato e che invece, come avete sentito, è storia ancora di oggi, perché questi personaggi colpevoli di strage per l'omicidio dei fratelli Mattei sono ancora liberi, Achille Lollo in Brasile e Clavo invece in Nicaragua. Noi continueremo naturalmente a raccontarvi queste storie d'Italia, anche queste storie dimenticate, che spesso dimentichiamo, ma che sono dei passaggi importanti e cruciali della storia di questo paese. Italia in controluce, la seconda edizione, termina qui. Cercateci ogni giorno su Facebook, su Twitter, oppure il nostro blog, dove potete trovare anche la storia dei fratelli Mattei, controluce@radio24.it la mail. Vi ricordiamo domani 6:30 con l'intervista di Giovanni Bracco al critico d'arte Bonito Oliva.